www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. In quei giorni una nave ammiraglia inglese gettò l'ancora nella nostra rada. L'ammiraglio diede una festa ai notabili d'Ombrosa e agli ufficiali d'altre navi di passaggio. La marchesa ci andò. Da quella sera Cosimo riprovò le pene della gelosia. Due ufficiali di due navi diverse si invaghirono di Donna Viola e li si vedeva continuamente a riva, a corteggiare la dama e a cercare di superarsi nelle loro attenzioni. Uno era luogotenente di vascello dell'ammiraglia inglese, l'altro era pure egli luogotenente di vascello, ma della flotta napoletana. Presi a nolo due sauri, i luogotenenti facevano la spola sotto le terrazze della marchesa e quando si incontravano il napoletano roteava verso l'inglese un'occhiata da incenerirlo, mentre di tra le palpebre socchiuse dell'inglese saettava uno sguardo come la punta d'una spada. E Donna Viola? Non prende quella civetta a starsene ore e ore in casa, a venirsene al davanzale in matinée come fosse una vedovella fresca fresca appena uscita dal lutto? Cosimo, a non averla più con sé sulle piante, a non sentire l'avvicinarsi del galoppo del cavallo bianco, diventava matto. E il suo posto finì per essere, anche lui, davanti a quella terrazza, a tener d'occhio lei e i due luogotenenti di vascello. Stava studiando il modo di giocare qualche tiro ai rivali, che li facesse tornare al più presto sulle rispettive navi. Ma al vedere che Viola mostrava di gradire in egual modo la corte dell'uno e quella dell'altro, gli ridiede la speranza che ella volesse solo farsi gioco d'entrambi e di lui insieme. Non per questo diminuì la sua sorveglianza. Al primo segno che l'avesse dato di preferire uno dei due, era pronto a intervenire. Ecco, un mattino passa l'inglese. Viola è alla finestra. Si sorridono. La marchesa lascia cadere un biglietto, l'ufficiale lo afferra al volo, lo legge, si inchina, rosso in volto, e sprona via. Un convegno. Era l'inglese il fortunato. Cosimo si giurò di non lasciarlo arrivare tranquillo fino a sera. In quella passa il napoletano. Viola getta un biglietto anche a lui. L'ufficiale lo legge, lo porta alle labbra e lo bacia. Dunque si reputava il prescelto. E l'altro allora? Contro quale dei due Cosimo doveva agire? Certo, a uno dei due Donna Viola aveva fissato un appuntamento. All'altro doveva solamente aver fatto uno scherzo dei suoi. O li voleva beffare tutti e due? Quanto al luogo del convegno, Cosimo appuntava i suoi sospetti su di un chiosco in fondo al parco. Poco tempo prima la marchesa l'aveva fatto riattare e arredare e Cosimo si rodeva dalla gelosia, perché non era più il tempo in cui lei caricava le cime degli alberi di tendaggi e divani. Ora si preoccupava di luoghi dove egli non sarebbe mai entrato. «Sorveglierò il padiglione», Cosimo si disse. «Se ha fissato un convegno con uno dei due, non può essere che lì». E s'appollaiò nel folto d'un castagno d'India. Poco prima del tramonto, s'ode un galoppo. Arriva il napoletano. «Ora lo provoco», pensa Cosimo. E con una cerbottana gli tira nel collo una pallottola di sterco di scoiattolo. L'ufficiale trasalisce, si guarda intorno. Cosimo si sporge dal ramo e nello sporgersi vede al di là della siepe il luogotenente inglese che sta scendendo di sella e lega il cavallo a un palo. Allora è lui. Forse l'altro passava qui per caso. E giù una cerbottanata di scoiattolo sul naso. «Who's there?» dice l'inglese e fa per attraversare la siepe, ma si trova faccia a faccia col collega napoletano che, sceso anch'egli da cavallo, sta dicendo lui pure «Chi è là?» «I beg your pardon, sir?» dice l'inglese, ma debbo invitarvi a sgombrare immediatamente questo luogo. Se sto qui è con mio buon diritto, fa il napoletano. Invito ad andarsene la signoria vostra. Nessun diritto può valere il mio, replica l'inglese. I'm sorry, non vi consento di restare. È una questione d'onore, dice l'altro, e ne faccia pure fede il mio casato, Salvatore di San Cataldo di Santa Maria Capoavetere, della Marina delle Due Sicilie. Sir Osbert Castlefight, terzo del nome, si presenta l'inglese. È il mio onore a imporre che voi sgombriate il campo. Non prima d'aver cacciato voi con questa spada, e la trae dal fodero. Signor, vogliate battervi, fa Sir Osbert, mettendosi in guardia. Si battono. È qui che vi volevo, collega, e non da oggi. Egli mena un'inquartata. E Sir Osbert, parando. Da tempo seguivo le vostre mosse, tenente, e v'attendevo a questo. Pari di forze, I due luogotenenti di vascello si spossavano in assalti e in finte. Erano al culmine della loro foga quando, fermatevi in nome del cielo, sulla soglia del padiglione era apparsa Donna Viola. Marchesa, quest'uomo, dissero i due luogotenenti ad una voce, abbassando le spade e indicandosi a vicenda, e Donna Viola. Miei cari amici, riponete codeste spade, ve ne prego. È questo il modo di spaventare una dama? Prediligevo questo padiglione come luogo più silenzioso e segreto del parco, ed ecco che appena assopita mi risveglia il vostro battere d'armi. Ma Milady, dice l'inglese, non ero io stato invitato qui da voi? Voi eravate ben qui per attendere me, signora, dice il napoletano. Dalla gola di Donna Viola si levò una risata leggera come un frullo d'ali. Sì, sì, sì, avevo invitato voi. O voi? Oh, la mia testa è così confusa. Ebbene, che attendete? Entrate, accomodatevi, vi prego. Milady, credevo si trattasse d'un invito per me solo, mi sono illuso. Vi riverisco e vi chiedo licenza. Lo stesso volevo dire pure io, signora, e congedarmi. La marchesa rideva. Miei buoni amici, miei buoni amici, sono così sventata. Credevo d'aver invitato Sir Osbert a un'ora e Don Salvatore a un'altra ora. No, no, no, scusatemi, alla stessa ora, ma in posti differenti. Oh no, come può essere? Ebbene, visto che siete qui entrambi, perché non possiamo sederci e fare conversazione civilmente? I due locotenenti si guardarono, poi guardarono lei. Dobbiamo intendere, Marchesa, che mostravate di gradire le nostre attenzioni solo per farvi gioco d'entrambi di noi? Perché, miei buoni amici? Al contrario, al contrario. La vostra assiduità non poteva lasciarmi indifferente. Siete entrambi così cari. È questa la mia pena. Se scegliessi l'eleganza di Sir Osbert, dovrei perdere voi, mio appassionato Don Salvatore, e scegliendo il fuoco del tenente di San Cataldo, dovrei rinunciare a voi, sir. Perché mai? Perché mai? Perché mai cosa? Domandarono a una voce i due ufficiali. E Donna Viola, abbassando il capo, perché mai non potrò essere d'entrambi nello stesso tempo. Dall'alto del castagno d'India s'udì un crosciar di rami. Era Cosimo che non riusciva più a tenersi calmo. Ma i due luogotenenti di vascello erano troppo sottosopra per udirlo. Indietreggiarono insieme d'un passo. Questo mai, signora! La marchesa alzò il bel volto con il suo sorriso più radioso. Ebbene, io sarò del primo di voi che, come prova d'amore, per compiacermi in tutto, si dichiarerà pronto anche a dividermi col rivale. Signora! Milady! I due locotenenti, inchinatesi verso Viola in una secca riverenza di commiato, si voltarono l'uno di fronte all'altro, si tesero la mano, se la strinsero. «I will show you were a gentleman, signor Cataldo», disse l'inglese. «Né io dubitavo del vostro onore, mister Osberto», fece il napoletano. Voltarono le spalle alla marchesa e s'avviarono ai cavalli. «Amici miei, perché così offesi, sciocconi?» diceva Viola, ma i due ufficiali avevano già il piede sulla staffa. Era il momento che Cosimo aspettava da un pezzo, pregustando la vendetta che aveva preparato. Ora i due avrebbero avuto una ben dolorosa sorpresa. Se non che, vedendo il loro virile contegno nel congedarsi dall'immodesta marchesa, Cosimo si sentì improvvisamente riconciliato con loro. Troppo tardi, ormai il terribile dispositivo di vendetta non poteva più essere tolto. Nello spazio di un secondo, Cosimo generosamente decise di avvertirli. «Alto là!» gridò dall'albero. «Non sedetevi in sella!» I due ufficiali alzarono vivamente il capo. «What are you doing up there? Che fate costassù? Come vi permettete? Calm down!» Dietro di loro s'udì il riso di Donna Viola, una delle sue risate a frullo. I due erano perplessi. C'era un terzo che, a quanto pare, aveva assistito a tutta la scena. La situazione si faceva più complessa. «In any way», dissero, «noi due restiamo solidali. Sul nostro onore. Nessuno di due consentirà a dividere Milady con chi che sia. Mai per la vita!» «Ma se uno di voi decidesse ad acconsentire, in questo caso sempre solidali, acconsentiremmo insieme. D'accordo, e ora via!» A questo nuovo dialogo Cosimo si morse un dito dalla rabbia, d'aver tentato d'evitare il compimento della vendetta. «Che si compia dunque!» E si ritrasse tra le fronde. I due ufficiali balzavano in arcioni. «Ora gridano», pensò Cosimo, e gli venne da tapparsi le orecchie. Risuonò un duplice urlo. I due luogotenenti si erano seduti su due porcospini nascosti sotto la gualdrappa delle selle. «Tradimento!» e volarono a terra, in un'esplosione di salti e grida e giri su se stessi, e pareva che volessero prendersela con la marchesa. Ma Donna Viola, più indignata di loro, gridò verso l'alto. «Scimmione maligno e mostruoso!» e s'avventò per il tronco del castagno d'India, così rapidamente scomparendo alla vista dei due ufficiali che la credettero inghiottita dalla terra. Tra i rami Viola si trovò di fronte Cosimo. Si guardavano con occhi fiammeggianti e quest'ira dava loro una specie di purezza, come arcangeli. Pareva stessero per sbranarsi quando la donna, «Oh mio caro!» esclamò, «Così, così ti voglio, geloso, implacabile!» Già gli aveva gettato le braccia al collo e s'abbracciavano e Cosimo non si ricordava già più nulla. Lei gli ondeggiò tra le braccia, staccò il viso dal suo come riflettendo. E poi... «Però... anche loro due quanto m'amano, hai visto? Sono pronti a dividermi tra loro». Cosimo parve gettarsi contro di lei, poi si sollevò tra i rami, morse le fronde, picchiò il capo contro il tronco. «Sono due vermi!» Viola s'era allontanata da lui col suo viso di statua. «Hai molto da imparare da loro». Si voltò, scese veloce dall'albero. I due corteggiatori, dimentichi delle passate contese, non avevano trovato altro partito che quello di incominciare con pazienza a cercarsi a vicenda le spine. Donna Viola li interruppe. «Presto, venite sulla mia carrozza». Scomparvero dietro il padiglione. La carrozza partì. Cosimo, sul castagno d'India, nascondeva il viso tra le mani. Cominciò un tempo di tormenti per Cosimo, ma anche per i due ex rivali. E per Viola poteva forse dirsi un tempo di gioia. Io credo che la marchesa tormentasse gli altri solo perché voleva tormentarsi. I due nobili ufficiali erano sempre tra i piedi, inseparabili, sotto le finestre di Viola, o invitati nel suo salotto, o in lunghe soste soli all'osteria. Lei li lusingava tutti e due e chiedeva loro in gara sempre nuove prove d'amore, alle quali essi ogni volta si dichiaravano pronti. E già erano disposti ad aver la metà per uno, non solo, ma a dividerla anche con altri. E ormai, rotolando per la china delle concessioni, non potevano fermarsi più, spinti ognuno dal desiderio di riuscire finalmente in questo modo a commuoverla e a ottenere il mantenimento delle sue promesse, e nello stesso tempo impegnati dal patto di solidarietà col rivale e insieme divorati dalla gelosia e dalla speranza di soppiantarlo, e ormai anche dal richiamo dell'oscura degradazione in cui si sentivano affondare. A ogni nuova promessa strappata agli ufficiali di marina, Viola montava a cavallo e andava a dirlo a Cosimo. «Di, lo sai che l'inglese è disposto a questo e a questo? E il napoletano pure!» gli gridava, appena lo vedeva tetramente appollaiato su un albero. Cosimo non rispondeva. «Questo è amore assoluto!» lei insisteva. «Vaccate assolute! Tutti quanti siete!» urlava Cosimo e spariva. Era questo il crudele modo che ora avevano d'amarsi, e non trovavano più la via d'uscirne. La nave ammiraglia inglese salpava. «Voi restate, è vero?» disse Viola a Sir Osbert. Sir Osbert non si presentò a bordo, fu dichiarato disertore. Per solidarietà ed emulazione Don Salvatore disertò pure lui. «Loro hanno disertato!» annunciò trionfalmente Viola a Cosimo. «Per me! E tu? E io?» urlò Cosimo con uno sguardo così feroce che Viola non disse più una parola. Sir Osbert e Salvatore di San Cataldo, disertori della marina delle rispettive maestà, passavano le giornate all'osteria, giocando ai dadi, pallidi, inquieti, cercando di sbancarsi a vicenda, mentre Viola era al culmine della scontentezza di sé e di tutto quel che la circondava. Prese il cavallo e andò verso il bosco. Cosimo era su una quercia. Lei si fermò sotto, in un prato. «Sono stanca». «Di quelli?» «Di tutti voi». «Ah, loro mi hanno dato le più grandi prove d'amore», Cosimo sputò. «Ma non mi bastano». Cosimo alzò gli occhi su di lei. «E lei?» «Tu non credi che l'amore sia dedizione assoluta, rinuncia di sé?» Era lì, sul prato, bella come mai, e la freddezza che induriva appena i suoi lineamenti e l'altero portamento della persona sarebbe bastato niente a scioglierli, a riaverla tra le braccia. Poteva dire qualcosa, Cosimo, una qualsiasi cosa per venirle incontro. Poteva dirle «Dimmi che cosa vuoi che faccia, sono pronto». E sarebbe stata di nuovo la felicità per lui, la felicità insieme, senza ombre. Invece disse «Non ci può essere amore se non si è se stessi, con tutte le proprie forze». Viola ebbe un moto di contrarietà, che era anche un moto di stanchezza. Eppure ancora avrebbe potuto capirlo, come difatti lo capiva. Anzi, aveva sulle labbra le parole da dire «Tu sei come io ti voglio» e subito risalire da lui. Si morse un labbro, disse «Sii te stesso da solo, allora». «Ma allora essere me stesso non ha senso, ecco quello che voleva dire Cosimo». Invece disse «Se preferisci quei due vermi». «Non ti permetto di disprezzare i miei amici», lei gridò. E ancora pensava «A me importi solo tu, è solo per te che faccio tutto quel che faccio». «Solo io posso essere disprezzato». «Il tuo modo di pensare. Sono una cosa sola con esso». «Allora addio, Cosimo. Parto stasera stessa. Non mi vedrai più». Corse alla villa, fece i bagagli, partì senza neppure dire niente ai luogotenenti. Fu di parola, non tornò più a Ombrosa. Andò in Francia e gli avvenimenti storici s'accavallarono alla sua volontà, quando ella già non desiderava che tornare. Scoppiò la rivoluzione, poi la guerra. La marchesa, dapprima interessata al nuovo corso degli eventi, era nell'entourage di Lafayette, emigrò poi nel Belgio e di là in Inghilterra. Nella nebbia di Londra, durante i lunghi anni delle guerre contro Napoleone, sognava gli alberi d'Ombrosa. Poi si risposò con un lord interessato nella Compagnia delle Indie e si stabilì a Calcutta. Dalla sua terrazza guardava le foreste, gli alberi più strani di quelli del giardino della sua infanzia, e le pareva ogni momento di vedere Cosimo farsi largo tra le foglie. Ma era l'ombra d'una scimmia o d'un giaguaro. Sir Osbert Castelfite e Salvatore di San Cataldo restarono legati per la vita e per la morte, e si diedero alla carriera dell'avventuriero. Furono visti nelle case di gioco di Venezia, a Gottinga alla facoltà di teologia, a Pietroburgo alla corte di Caterina II, poi se ne persero le tracce. Cosimo restò per lungo tempo a vagabondare per i boschi, piangendo, lacero, rifiutando il cibo. Piangeva a gran voce come i neonati, e gli uccelli che una volta fuggivano a stormi all'approssimarsi di quell'infallibile cacciatore, ora gli si facevano vicini, intorno sulle cime degli alberi o volandogli sul capo. E i passeri gridavano, trillavano i cardellini, tubava la tortora, zirlava il tordo, cinguettava il fringuello e lui. E dalle alte tane uscivano gli scoiattoli, i ghiri, i topi campagnoli, e univano i loro squittii al coro. E così si muoveva mio fratello in mezzo a questa nuvola di pianti. Poi venne il tempo della violenza distruggitrice. Ogni albero cominciava dalla vetta, e via una foglia, via l'altra, rapidissimo lo riduceva a bruco come d'inverno, anche se non era d'abito spogliante. Poi risaliva in cima e tutti i ramoscelli li spezzava finché non lasciava che le grosse travature. Risaliva ancora e con un temperino cominciava a staccare la corteccia e si vedevano le piante scorticate scoprire il bianco con una brividente aria ferita. E in tutto questo rovello non c'era più risentimento contro Viola, ma soltanto rimorso per averla perduta, per non aver saputo tenerla legata a sé, per averla ferita con un ingiusto e sciocco orgoglio. Perché ora lo capiva, lei era stata sempre fedele, e se si portava dietro altri due uomini era per significare che stimava solo Cosimo degno d'essere il suo unico amante, e tutte le sue insoddisfazioni e bizze non erano che la smania insaziabile di far crescere il loro innamoramento, non ammettendo che toccasse un culmine. E lui non aveva capito nulla di questo e l'aveva inasprita fino a perderla. Per alcune settimane si tenne nel bosco solo come mai era stato. Non aveva più neanche ottimo Massimo, perché se l'era portato via Viola. Quando mio fratello tornò a mostrarsi a Ombrosa, era cambiato. Neanche io potevo più farmi illusioni. Stavolta Cosimo era proprio diventato matto. Che Cosimo fosse matto, a Ombrosa si era detto sempre, fin da quando a 12 anni era salito sugli alberi, rifiutandosi di scendere. Ma in seguito, come succede, questa sua follia era stata accettata da tutti, e non parlo solo della fissazione di vivere lassù, ma delle varie stranezze del suo carattere, e nessuno lo considerava altrimenti che un originale. Poi, nella piena stagione del suo amore per Viola, ci furono le manifestazioni in idiomi incomprensibili, specialmente quelle durante la festa del patrono, che più giudicarono sacrilega, interpretando le sue parole come un grido eretico, forse in cartaginese, lingua dei pelagiani, o una professione di socinianesimo, in polacco. Da allora cominciò a correre la voce. «Il barone è ammattito!» E ben pensanti soggiungevano: come può ammattire uno che è stato matto sempre? In mezzo a questi contrastanti giudizi, Cosimo era diventato matto davvero. Se prima andava vestito di pelli da capo a piedi, ora cominciò ad adornarsi la testa di penne, come gli aborigeni d'America, penne d'upupa o di verdone, dai colori vivaci, e oltre che in testa ne portava sparse sui vestiti. Finì per farsi delle marsine tutte ricoperte di penne e a imitare le abitudini di vari uccelli, come il picchio, traendo dai tronchi lombrichi e larve e vantandoli come gran ricchezza. Pronunciava anche delle apologie degli uccelli alla gente che si radunava a sentirlo e a motteggiarlo sotto gli alberi, e da cacciatore si fece avvocato dei pennuti e si proclamava ora codibugnolo, ora barbagianni, ora pettirosso, con opportuni camuffamenti, e teneva discorsi d'accusa agli uomini che non sapevano riconoscere negli uccelli i loro veri amici, discorsi che erano poi d'accusa a tutta la società umana sotto forma di parabole. Pure gli uccelli si erano accorti di questo suo mutamento di idee e gli venivano vicino anche se sotto c'era gente ad ascoltarlo. Così egli poteva illustrare il suo discorso con esempi viventi che indicava sui rami intorno. Per questa sua virtù, molto si parlò tra i cacciatori d'ombrosa d'usarlo come richiamo, ma nessuno osò mai sparare sugli uccelli che gli si posavano vicino, perché il barone, anche adesso che era ridotto così fuori di senno, continuava a incutere una certa soggezione. Lo canzonavano, sì, e aveva spesso sotto i suoi alberi un codazzo di monelli e fannulloni che gli davano la baia, però veniva anche rispettato e ascoltato sempre con attenzione. I suoi alberi ora erano addobbati di fogli scritti e anche di cartelli con massime di Seneca e Shakespeare e di oggetti. Ciuffi di penne, ceri da chiesa, falciuole, corone, busti da donna, pistole, bilance, legati l'uno all'altro in un certo ordine. La gente d'Ombrosa passava le ore a cercare di indovinare cosa volevano dire quei rebus. I nobili, il papa, la virtù, la guerra. E io credo che certe volte non avessero nessun significato, ma servissero solo ad aguzzare l'ingegno e a far capire che anche le idee più fuori del comune potevano essere le giuste. Cosimo si mise anche a comporre certi scritti, come il verso del merlo, il picchio che bussa, i dialoghi dei gufi, e a distribuirli pubblicamente. Anzi, fu proprio in questo periodo di demenza che apprese l'arte della stampa e cominciò a stampare delle specie di libelli o gazzette, tra cui la Gazzetta delle Gazze, poi tutte unificate sotto il titolo Il Monitore dei Bipedi. S'era portato su di un noce un pancone, un telaio, un torchio, una cassetta di caratteri, una damigiana d'inchiostro e passava le giornate a comporre le sue pagine e a tirare copie. Alle volte, tra il telaio e la carta, capitavano dei ragni, delle farfalle e la loro impronta restava stampata sulla pagina. Alle volte un ghiro saltava sul foglio fresco d'inchiostro e imbrattava tutto a colpi di coda. Alle volte gli scoiattoli si prendevano una lettera dell'alfabeto e se la portavano nella loro tana, credendo fosse da mangiare, come capitò con la lettera Q maiuscola, che per quella forma rotonda e peduncolata fu presa per un frutto e Cosimo dovette incominciare certi articoli, quando e quantunque, usando la C. Tutte belle cose, però io avevo l'impressione che in quel tempo mio fratello non solo fosse del tutto ammattito, ma andasse anche un poco imbecillendosi. Cosa questa più grave e dolorosa, perché la pazzia è una forza della natura, nel male o nel bene, mentre la minchioneria è una debolezza della natura, senza contropartita. D'inverno, infatti, egli parve ridursi a una specie di letargo. Stava appeso a un tronco nel suo sacco imbottito, con solo la testa fuori, come un nidiaceo, ed era tanto se, nelle ore più calde, faceva quattro salti per arrivare allontano sul torrente Merdanzo a fare i suoi bisogni. Se ne stava nel sacco a leggiucchiare, accendendo a buio una lucernetta a olio, o a borbottare tra sé, o a canticchiare, ma il più del tempo lo passava dormendo. Per mangiare aveva certe sue misteriose provviste, ma si lasciava offrire piatti di minestrone e di ravioli quando qualche anima buona veniva a portargliele fin su, con una scala. Difatti era nata come una superstizione nella gente minuta che a fare un'offerta al barone portasse fortuna, segno che egli suscitava o timore o benvolere, e io credo il secondo. Questo fatto che l'erede del titolo baronale di Rondò si mettesse a vivere di pubbliche elemosine mi parve disdicevole e soprattutto pensai alla buon'anima di nostro padre se l'avesse saputo. Per me, fino allora, non avevo da rimproverarmi nulla, perché mio fratello aveva sempre disprezzato le comodità della famiglia e m'aveva firmato una carta per la quale, dopo avergli versato una piccola rendita, che gli andava quasi tutta in libri, verso di lui non avevo più nessun dovere. Ma adesso, vedendolo incapace di procurarsi il cibo, provai a far salire da lui, su una scala a pioli, uno dei nostri lacchei livrea e parrucca bianca, con un quarto di tacchino e un bicchiere di borgogna su un vassoio. Credevo rifiutasse, per una di quelle misteriose ragioni di principio, invece accettò subito molto volentieri, e da allora ogni volta che ce ne ricordavamo mandavamo una porzione delle nostre pietanze a lui sull'albero. Insomma, era una brutta decadenza. Per fortuna ci fu l'invasione dei lupi e Cosimo ridiede prova delle sue virtù migliori. Era un inverno gelido, la neve era caduta fin sui nostri boschi, torme di lupi, cacciati dalla fame e dalle Alpi, calarono alle nostre riviere, qualche boscaiolo li incontrò e ne portò la notizia atterrito. Gli ombrosotti, che dal tempo della guardia contro gli incendi avevano imparato a unirsi nel momento del pericolo, presero a far turni di sentinella intorno alla città per impedire l'avvicinarsi di quelle fiere affamate. Ma nessuno s'azzardava a uscire dall'abitato, massime la notte. Purtroppo il barone non è più quello d'una volta, si diceva Ombrosa. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini.